Appello. Ademo Elisabetta. Presente. Bozzini Emanuela. Presente. Calderon Clelia e Leo. Presente. De Angelis Marco. Presente. Obbligo di frequenza. Di Maria Piera Ceci. Non lo faccio spesso in obbligo di frequenza, ma questa volta la tentazione è troppo forte per resistere. Questo fine settimana si sono tenute le votazioni per il rinnovo dei consigli d'istituto. Ho fatto la scrutatrice nella scuola di mia figlia, un istituto comprensivo in una zona bene di Milano, elementari più medie, un'esperienza interessantissima, perché questa è la scuola. Domenica mi presento puntuale ai cancelli dell'istituto alle 8:30. Insieme a me altre due mamme che hanno lasciato i bambini nei loro lettucci caldi e una giovane insegnante, anche lei donna, per un seggio dunque tutto al femminile. Pronte a chiacchierare di bambini tutto il tempo, sorpresa! Il primo votante alle 8:31 è un papà. Deve andare fuori Milano, ma al voto non ci vuole proprio rinunciare. E seguono tanti altri papà, qualcuno in tuta pronto per il jogging, molti vestiti di tutto punto, pronti invece per la messa nella chiesa di fronte. L'affluenza al voto segue infatti rigorosamente gli orari delle due funzioni mattutine. Qualcuno viene poco prima, qualcuno subito dopo. Negli altri orari il deserto, ma un po' freddo come deserto, visto che, manco a dirlo, i termosifoni vanno a singhiozzo, così come a singhiozzo va la TV che ci fa compagnia, unico triste segno dell'aula multimediale che ospita il seggio. Ma quella è la mia vecchia TV, la riconosce un altro papà votante che l'aveva donata alla scuola in un impeto di generosità qualche anno fa. Un papà, ma non è l'unico, che scambia il voto per una seduta psicanalitica. Una scuola in cui non si riconosce più questa, racconta, senza entusiasmo, con insegnanti distanti e diffidenti, strutture fatiscenti, neanche una palestra in cui fare ginnastica, ora che la scuola media è ospite di un istituto superiore di zona perché il vecchio istituto è stato demolito. Dovevano ricostruirla in tempi record. Bellissima, avevano giurato le autorità, ma intanto gli anni passano, gli appalti si susseguono, i ragazzi si iscrivono ad altre scuole, il cumulo di terra smossa rimane lì, in mezzo al quartiere, come una ferita sanguinante. Le ore scorrono, qualcuno guarda sulla lavagna il numero dei votanti alle ore 11. Solo 84, si stupiscono. E noi sorridiamo, non sanno che per tenerci sul morale, un po' per scherzo, abbiamo ritoccato il numero vero, che in realtà è di appena 24, noi quattro comprese, peraltro. La mamma di un bimbo di prima media si lamenta perché i professori sono troppo severi, il figlio arriva da un elementare poco più in là, frequentata in maggioranza da stranieri. Tanti corsi frequentati per imparare a lavorare la creta, ma forse un po' troppa poca matematica e grammatica. Il bambino ora è in difficoltà. E a proposito di stranieri, sono arrivati anche in questa scuola, e numerosi. A scorrere gli elenchi delle prime è un fiorire di nomi egiziani, filippini, sudamericani. Un papà nordafricano si affaccia timido alla porta e lo accogliamo con grande calore. È l'unico straniero che si è fatto vedere fino adesso. Poi mi dà la sua carta d'identità e fatico non poco a trovare il suo nome sulla lista. Infatti hanno sbagliato, ma non glielo dico per pudore. L'hanno registrato sotto il nome e non sotto il cognome. Noi, fra una messa e l'altra, è tutta una chiacchierata scolastica. L'ex compagnetta di sua figlia, che l'abbiamo rincontrata con lo sguardo triste sotto il chador che forse non aveva tanta voglia di indossare. I compiti a casa, troppi o troppo pochi? L'insegnante troppo materna e quella troppo fredda. E poi la scelta delle medie, un vero rebus fra tagli delle ore e docenti precari. Meglio una scuola buona ma lontana da casa o un po' meno buona ma sotto casa? E così arrivano le 12:30, chiudiamo il verbale, ma ci accorgiamo che i commessi hanno fatto male le fotocopie, mancano due pagine. Domani, anche se non si potrebbe, ci si penserà. Si fotocopieranno le pagine mancanti e si farà un bel collage. Il seggio chiude, rimandiamo a casa una mamma trafelata e ce ne andiamo. La sensazione che abbiamo appiccicata addosso è proprio quella di una scuola collage. Un pezzetto di buona volontà ce lo metto io genitore, un pezzetto ce lo metti tu insegnante, un po' tu preside. E lo facciamo tutti davvero volentieri, perché cavoli, stiamo parlando dei nostri figli. Ma per quanto tempo starà in piedi una scuola pubblica così? Occupazioni, puntuali come l'influenza, in autunno arrivano le occupazioni. Ma Facebook ha tirato un brutto scherzo agli studenti del liceo Morgagni di Roma. I professori hanno saputo della protesta, anche loro del resto frequentano Facebook, e il giorno dopo si sono presentati a scuola e l'hanno chiusa, impedendo dunque l'occupazione. Andiamo dunque alla Morgagni, la preside Maria Luisa Michesi al microfono di Maria Chiara Grandis. Abbiamo semplicemente difeso la scuola pubblica da un'occupazione di cui la scuola sarebbe stata non solo ostaggio ma vittima. Tutto qua. Senta, ma sui giornali si parlava di queste barricate che mi sembra voi smentiate. Allora, la storia mi insegna che barricate sono quelle che hanno innalzato i comunardi, sono quelli che hanno innalzato nelle 5 giornate di Milano, qui nessuno ha alzato le barricate. Abbiamo semplicemente chiuso scuola per impedire a un gruppo di ragazzi, che non era nemmeno la maggioranza, di occupare scuola. Basta, tutto qua. Ma perché l'occupazione proprio no? Si fanno spesso in questi periodi. L'occupazione non risolve i problemi della scuola, li peggiora, avvilisce la scuola e depaupera la scuola di quello che ha. L'occupazione non è più scuola, è meno scuola. Delusione invece naturalmente fra i ragazzi che erano pronti all'occupazione. È vero che è uscita su Facebook questa cosa? Io in realtà non l'ho vista su Facebook questa cosa, però mi è arrivata questa voce, non so se gira la voce che ci sia qualcuno che sia infiltrato durante le nostre assemblee studentesche e che abbia dato informazioni preziose ai professori riguardo alla nostra occupazione, alla nostra tentata occupazione di lunedì. Cosa farete? Abbiamo intenzione di fare un flash mob, il Frozen, sarebbe appunto fermarci tutti insieme nello stesso istante come statue, appunto come congelati, e dopo aver tirato giù lo striscione che abbiamo preparato questa mattina dal pincio. Chi è che vi racconta invece che corsi organizzate voi durante l'occupazione? Al contrario di come hanno pensato da subito i professori e la preside stessa, l'occupazione era organizzata nei minimi dettagli, sia per quanto riguarda proprio l'azione di insediarci all'interno dell'edificio, sia per quanto riguardava l'organizzazione e il tenere l'occupazione in sé durante i giorni che poi sarebbe proseguita, perché non avevamo programmato un numero di giorni precisi. In ogni caso avevamo corsi di ogni genere, da ovviamente i corsi che si sarebbero svolti quotidianamente durante tutta la giornata, che erano quelli fondamentali che riguardavano le motivazioni della nostra protesta, quindi la riforma, un corso ben esposto, probabilmente avremmo invitato degli universitari e dei precari a raccontarci bene cosa significasse nei minimi dettagli tutto il DDL Prea, che è un bel mattone da leggersi, soprattutto per i ragazzi più piccoli che si approcciano quest'anno al mondo delle scuole superiori e iniziano quest'anno a crearsi una coscienza politica. E abbiamo corso di tutti i generi, sulle vittime dello Stato, volevamo far capire anche ancora una volta ai ragazzi cosa sta accadendo in Italia col recente omicidio di Stefano Cucchi, partendo da tutti i precedenti, da Stefano Giuliani a Dax a Federico Aldorandi in poi, ma non ci è stato permesso di fare nulla di tutto ciò, quindi tutto saltato. L'asinello. È un po' che non uso questo stacchetto per mettere qualcuno dietro la lavagna, in ginocchio sui ceci, come volete voi, ma stavolta proprio ci vuole. I compiti a casa non li ama nessuno, diciamocelo, non li amano i ragazzi, non li amano manco i genitori. Ma che due genitori canadesi, invece che limitarsi ai classici accidenti contro qualche prof esagerato, si siano messi a promuovere una causa contro la scuola elementare dei figli e abbiano impiegato 2 anni di energie per dimostrare che i compiti sono uno stress del tutto inutile, ci sembra davvero un po' assurdo. E ancora più assurdo è che alla fine hanno avuto la meglio. La scuola ha infatti accettato un accordo con la coppia che prevede, e solo per loro in tutta la scuola, che i bambini non avranno più compiti a casa. Mercoledì prossimo, 7ª giornata nazionale della sicurezza scolastica promossa da Cittadinanza Attiva e Protezione Civile. Molte le attività nelle scuole, sarà anche l'occasione per fare il punto su quanto ne sanno di terremoto studenti delle scuole medie e superiori e i loro genitori. Ci anticipa i risultati Adriana Bizzarri di Cittadinanza Attiva. Ma a nostro parere quelli più interessanti riguardano sia i comportamenti che la conoscenza del rischio sismico. Riguardo ai comportamenti notiamo che ormai fa parte proprio della cultura della sicurezza, della prevenzione, sia nei ragazzi che nei genitori, il fatto di sapere quali siano i comportamenti da tenere durante e dopo la scossa. Quindi da questo punto di vista i dati sono confortanti. Quindi i ragazzi, nel caso in cui ci sia una scossa, sanno grosso modo quello che devono fare. Esatto, almeno lo sanno in relazione alla casa e in relazione all'aula scolastica. scolastica, e questo, diciamo, ci incoraggia, anche se chiaramente va esteso poi agli altri ambienti, no? Quindi da questo punto di vista il lavoro ce n'è ancora, però questa è una buona notizia certamente. Diverso è il discorso invece per quanto attiene proprio la conoscenza del terremoto e riguardo a come il proprio comune sia pronto a fronteggiare una calamità naturale, quindi una situazione di emergenza. Qui davvero siamo in una situazione di grande deficit conoscitivo, perché da una parte appunto sia i genitori che gli studenti rispondono in modo davvero errato rispetto alla previsione, alla possibilità di prevedere un terremoto, tant'è che in molti ci si affida ancora al comportamento degli animali, oppure si ritiene che il sismografo, anziché registrare la scossa, come tutti sappiamo, può prevedere il terremoto, quindi davvero risposte totalmente inappropriate. Quindi insomma una grande ignoranza poi sul fenomeno terremoto. In sé, chiaramente questa indagine è stata chiusa il 31 marzo, quindi ciò vuol dire che non c'era ancora stato l'evento calamitoso dell'Abruzzo, ovviamente. Che ci ha reso quindi tutti un po' più... Esatto, tant'è che noi ne abbiamo esperti. Rilanciato una seconda, perché vogliamo vedere quanto si siano modificate queste conoscenze alla luce proprio di quell'evento. Se volete riascoltare questa trasmissione potete farlo cliccando su radio24.it. Noi ci risentiamo sabato prossimo, come sempre, alle 12.45.